Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà infâme bail, ça fait déjà infâme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Sto guardando, mentre inizio la trasmissione, un video su YouTube che mi hanno appena segnalato. Fa parte di uno dei programmi televisivi dedicati agli scherzi, alle candid camera. C'è un signore che ha messo in cima a un lungo bastone un enorme topolone finto di peluche, però molto realistico, una grande pantegana. Si apposta nei cespugli dietro le panchine dove stanno sedute tranquille signore, tenere massaie, umarels col giornale, e da sotto la panchina glielo infila sotto e glielo fa passare tra i piedi. E sono delle scene di panico assurde. Sì, perché questo topolone è gigantesco, è oversize, è al di sopra di ogni possibilità di vedere un topo. E è bello perché vedo il signore fare dei salti altissimi, schizzare via, e da dietro con un semplice gioco, con un bastone, li spaventa. Esiste probabilmente, sicuramente, questo oggi mi causerà più di un dolore e più di una protesta, un terribile pregiudizio nei confronti degli animali. Dico subito, a mia parziale discolpa, che noi proiettiamo negli animali alcune nostre paure ancestrali e i poveri nostri amici pelosi a quattro zampe non hanno nessun tipo di responsabilità se noi temiamo le orche assassine, gli squali divoratori, le piovre strangolatrici, le pantegane gigantesche divoratrici che ci fanno particolarmente paura, i serpenti stritolatori, i cani sgozzatori. Ogni tanto vediamo qualche pallida cronaca di qualche banalissimo incidente nel nostro mondo di esseri umani razionali che lontanamente ricorda queste ataviche ancestrali paure per i grandi animali o per i piccoli animali che quando si rivoltano all'umano vessatore sono veramente terribili. Se ne sono andati, Mitch? Credo di sì. Si è fatto male nessuno? Jenny ha un graffio su una guancia, ma non è niente. È già la terza volta. Su, vuoi? Mitch, è strano, non crede? Il gabbiano quando ero in barca ieri sera. Poi quello da anni stanotte e ora... Stanotte? Che è successo? Un gabbiano ha sbattuto contro la porta. Mitch, che sta succedendo? Alfred Hitchcock nel 1963 ebbe per primo il coraggio di... raccontare poeticamente, drammaticamente, con un film che è una pietra miliare nella storia del cinema, dello spavento, la paura, dell'enigma spaventoso, quello che può concretizzare e creare la tavica nascosta, profonda, insondabile paura per gli uccelli. È un film molto famoso di cui chiedo a Giuseppe Sansonna in apertura di iniziare a parlare, visto che dobbiamo parlare degli animali assassini. Se ti sei commosso su Hitchcock, capisco, perché è un maestro che in effetti ingenera commozione ed è giusto comunque essere accorati nel parlare dei sensi riposti di questa natura panica. Hitchcock in realtà si ricollega al mondo di Fedro, al mondo esopico, che parlava di favole morali e affidava agli animali favole morali e spiegazioni che dovessero appunto illustrare la vita. Poi c'era il bestiario medievale, il Beltro di Dante, di Can Grande della Scala, che anticipava l'arrivo appunto di Can Grande della Scala, la lonza dalla gaglietta pelle. Ci sono tanti animali, i tre animali che incontrano nel primo canto Dante. Quindi agli animali è affidato tutto un mondo misterioso, la natura ci parla attraverso gli animali da sempre. Negli ultimi anni, da quando c'è il cinema, nell'ultimo secolo, di fatto gli animali sono venuti per punire la nostra hubris di razza dominante, perché si rivoltano a noi. Hitchcock non spiega il mistero, non crea un nesso quello ovvio, è il grande enigma del film, non sa causa effetto, si rivoltano. Ma si rivoltano questi uccelli di varia natura e Tip Edren è la protagonista, madre di Melanie Griffith, che qui esordisce magistralmente diretta da ecco, Hitchcock. 80024 0024, chiedo venia per un momento di commozione, ma non poteva essere altrimenti, io stesso ha contagiato molto... anche me, ha contagiato... la gola stretta, ma è un po' di tempo che sono molto incline a lasciarmi andare a sensi, il Natale, forse il Natale, forse il Natale, forse l'invecchiamento, non so. Sono entrato subito, compenetrato la sorte di quelle povere vittime dei becchi assassini e degli artigli rapaci. 800240024, in quale animale riponete la vostra più nascosta paura? Quale animale sognate che venga a divorarvi, a dilaniarvi, a farvi a pezzi, depezzarvi, a farvi soffrire attraverso spasimi atroci? E lo associate a qualche film in particolare? O siete d'accordo, siete contrari che esista una sorta di bestiario maledetto? In realtà i nostri poveri amici a quattro zampe pelosi non hanno nessuna colpa, come abbiamo già detto, siamo noi cattivi umani che attribuiamo a noi, a loro, delle nequizie, delle bassezze che soltanto l'animo umano nella sua perfidia riesce a concepire. 800240024. Ciao al mio piccolo amico. I ragni sono carnivori, lo sapevi? Quando non ho più bisogno di uno degli esemplari, allora lo offro ai ragni, che lui lo voglia oppure no. È inutile che ti agiti, non hai via di scampo. Non preoccuparti, non vuole mangiarti, ma le porre il suo uovo dentro di te. Dopo tornerai normale, per un po' almeno, fino a che non crescerà e il suo piccolo non vorrà uscire. Non aver paura, ce li metto in dolore, ma quasi in dolore. Per chi ha un lieve timore o ribrezzo per i ragni pelosi, devo dire che questa è un'immagine fantastica. Il ragno in fondo non è cattivo, non vuole divorarti, non vuole farti male, vuole soltanto metterti dentro il suo uovo. Ma come farà a metterti dentro il suo uovo, il ragno? È presto spiegato, no? Questo è un B-movie che ho razzolato ieri guardando nella rete. L'invasione dei ragni giganti. L'invasione dei ragni giganti, sì. Questo ragno che è grosso come un catamarano, che plana sulla vittima, del classico Mad Doctor che c'è in tutti questi film, che appunto fa esperimenti dopo gli animali, poi gli animali si ingigantiscono e si divolteranno. Giganti, sì. Questa è la punizione per, in realtà, per l'eccesso di illuminismo che ci porta poi a far rivoltare la natura contro di noi. E con questa zampetta inocula il suo enorme uovo. Dove? Dentro l'addome del malcapitato, legato con delle cinghie come da contenzione. Quindi dopo averlo inseminato nasceranno nel suo ventre tanti piccoli ragnetti. Come nelle leggende metropolitane, ti ricordi una volta? Ma diciamo, nella saga di Harry Potter appaiono spesso ragni giganti, una contaminazione. Però diciamo, questo genere di cinema degli animali fantastici a un suo punto apicale, laddove l'effettistica cinematografica comincia a creare animali che sembrano veri, totalmente verosimili, realistici, iperrealistici. Ma la cosa fantastica per noi che abbiamo uno spirito sicuramente malversato è vedere questi B-movie, come tu hai appena detto, film di bassissimo conio, di piccolissima e modestissima produzione, continuano ad arrangiarsi per costruire gli animali. Ora, Hitchcock, la parte terrificante, la sua invasione degli uccelli, non era tanto l'effetto, guardandolo soprattutto oggi con l'occhio abituato ai nuovi generi di mistificazione visiva, si vedeva che era totalmente tarocco la moltiplicazione degli uccelli, però facevano paura perché era l'irrazionalità che spaventava, era l'animale apparentemente innocuo che si rivolta e poi tanti ti fanno male, era l'incubo. Ma in questi ragni giganti, in tutti i topoloni mostruosi, le amebe spaziali, predomina il grottesco abuso di tecniche poverissime. Beh, per esempio nel cibo degli dei, che sono dei ratti che sono grossi come rinoceronti, c'è il montaggio alternato fra questi rattini su un modellino di macchina, alternati a un uomo dentro una macchina, che avete questo appunto questi simili pachidermi che battono contro il finestrino, e sono chiaramente dei peluche da fiera, insomma, quindi. Adesso, con la preghiera vivissima, e spero di essere esaudito, al professor Chiappini, che è il nostro spacciatore di B-movie, di trovare un altro pezzettino sui ragni giganti o rimandare quello che abbiamo in onda, anzi me lo mandi come sottofondo, per gentilezza, posso averlo? Ecco, sottofondo di ragno peloso gigante. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno. Qual è il suo problema? Ecco, proprio i ragni, allora, sono animali. Intanto le faccio ascoltare questo ragno gigante, no, peloso. Ce l'ha in sottofondo, prego, prego. È la voce del ragno questo, prego. Parli, parli. Sì. E allora, è una vita che ho 66 anni, è una vita che mi dedico agli animali, ma purtroppo per me mi vergogno profondamente se io vedo un ragno praticamente succede l'inferno. Ma i nostri piccoli fratelli pelosi otto zampe, non ha pietà per loro? No, non li ammazzo, intendiamoci. Eh no, ragno porta guadagno, non si ammazza ma mai. Ma poverini, poverini, io mi rendo perfettamente conto di questa mia assoluta incongruenza. Ma in tanto tempo non ho mai tentato, che ne so, di mettersi spogliata sotto una scatolone di ragni e sentire quelle zampettine che le passano addosso, così potrebbe magari superare il suo problema. Ma per favore, per favore. Vedersene camminare uno sulla faccia, magari lei sta con la bocca aperta, dorme e sente che sulla lingua gli entra quel ragnettino e non le fa tenerezza. Senta, tra l'altro già me ne sono venuti parecchi addosso di ragni, perché evidentemente li attiro, quindi per favore. Ma lei quale teme di più? Quelli grossi pelosi o quelli piccoli con le zampettine? Le tarantole. No, le tarantole proprio. Vabbè, la tarantole. Nera. Ma dove stanno nelle nostre case le tarantole? Non esistono. No, però sono andata in campeggio, le assicuro, a Bibbona. Guardi, è successo di tutto e di più. È stata assalita da una tarantola? No, però una casa invasa di ragnoni, sì. Scusi, infatti. Guardi, poi siamo andati Sansonna, che è di origine pugliese, le insegna che essere morsa una tarantola ha qualcosa di liberatorio, fantastico. Le tarantolate di Galatina erano povere signore che non avevano altra maniera per far capire al mondo che loro esistevano, che andavano sulle scale della chiesa, si sbattevano, si spogliavano, saltavano, zompavano sugli altari. Erano le tarantolate che una volta tanto erano liberate dal loro starsene chiuse da una parte, fingendo di non avere un corpo, avere una sessualità. Forse il morso a tarantola le potrebbe anche giovare, non è detto, provi. Posso anche provare, comunque preferisco affermarmi in un'altra maniera e non tentare proprio necessariamente. Ho fatto di tutto, strada. Guardi, ho fatto di tutto per stimolarla, non ci sono riuscito. Alessandro. Sì, buongiorno, è andata male, le è andata male. Niente, la questione, io quello che mi è capitato ve lo posso raccontare così. Io avevo una relazione con una donna e... Una donna ragno? No, una donna in carne ed ossa con tutti i suoi attributi, anche una bella donna. Era un rapporto un po' così strano in una casa, in un appartamento che avevo io in campagna. E cioè fuggivate alle reciproche famiglie andando nello spermatoio? No, nella maniera più assoluta, perché io sono libero e lei è libera. Bello. Quindi eravamo assolutamente in regola da questo punto di vista. Vi piaceva la campagna? Sì, ci piaceva la campagna e soprattutto ci piaceva fare l'amore. Io ero sotto la doccia, infatti avevamo appena terminato di fare l'amore. Pensa, io ero sotto la doccia e lei era in salotto che stava guardando la televisione. Era lì che fumava in salotto. Io ero tutto insaponato, a un certo punto la sento urlare come una pazza, ma veramente la sento fare degli urli da fuori di testa. E chi era entrato in casa? Io mi sono immediatamente spaventato, perché la prima cosa che ho pensato è che fosse entrato un malintenzionato, un ladro, qualcuno. E stava finendo l'opera che aveva lasciato incompiuta. No, io non ho lasciato incompiuta. Eventualmente le lascerà lei, Nicoletti, le cose. Vabbè, non è una domanda. Io quando inizio un compito lo porto a termine. Come sentenza. Questa certezza fa piacere. L'aspetto che è particolarmente allegro stamattina, sì, lei e anche il signor Sansò. Allora Sansonite. Io sono uscito dalla doccia tutto insaponato, no? Che facevo anche insomma la mia impressione. La sua bella figura. Ecco, tutto bello insaponato bianco, mi precipito a piedi nudi in salotto dove era la ragazza. La ragazza la vedo sulla poltrona tutta raggomitolata che urla: ma che cosa c'è? Che cosa c'è? E con il dito mi indica appunto questo grosso ragno nero che stava sul muro bianco. E allora l'ho preso questo ragno e l'ho buttato, non mi ricordo, fuori dalla finestra o sul lavandino della cucina, non mi ricordo. E dopo lei si è tranquillizzata e ha detto: ma che cosa è successo? Ah, perché io sono aracnofobica, io quando vedo un ragno io divento matta, perché mi creano terrore. E la morale qual è di questa racconto? Dopodiché la morale di questo racconto, la morale esopica qual è? No, erotica, esopica. Ho capito. Dopodiché io mi informai su questa aracnofobia, perché era una cosa che mi interessava, e scaturì proprio che questa aracnofobia è proprio una fobia per molto ragni. Pericolosa, è una cosa, insomma. Vabbè, abbiamo capito, ci ha raccontato tutta una storia con la scusa per dire. Va bene, grazie, buongiorno. Abbiamo Vincenzo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Lei è stato inseminato da un ragno? Allora, la vicenda è la seguente molto rapidamente. anni fa dormivo d'estate con finestra. No, volevo solo dire una cosa, Vincenzo. Sì. Abbiamo ancora gli squali, i cani, i vermoni assassini. Non ci fossilizziamo sui ragni. Prego, Vincenzo, però lei continui pure. Ecco, il ragno, perché l'evento è talmente straordinario, dormivo con la finestra aperta d'estate, dal balcone... Prono sul suo letto di riposo? Sul mio letto. Io mi sveglio al mattino con un dolore terrificante alla schiena, mia moglie mi guarda e vede una scia rossa con sette bolle vischiose, a toccarle era ripugnante e... L'aveva tutto... fecondata il ragno? Febbre alta, dolori altissimi, chiamo il medico, mi fa una puntura, mi dice sei stato fortunato perché ti ha preso sulla schiena, sei stato inseminato da una tarantola. Ma sembra impossibile, sembra un film dell'orrore. Sembra un film dell'orrore. E c'erano i ragnetti dentro, i poveri piccoli embruncini di rame. No, erano micro capsule vischiose, luride, biancastre, come se uno... E cosa ne ha fatto? Io sono rimasto fermo. Cioè perché non potevo muovermi, poi mia moglie mi fa vedere un enorme disco nero appeso in cima alla tenda, io mi levo, mi sollevo, prendo le due ciabatte. Era la madre? Era la grande femmina, prendo le ciabatte e con un salto la schiaccio. Ma porta malissimo ammazzare ragni, scherzi. È finita. Poi uccidere la madre di fronte ai poveri figli è ancora peggio. Ma mi ha insegnato davvero, il medico mi ha detto, non avevo mai visto una cosa simile. Sette punti, uno vicino all'altro, regolarissimi. E la sua vita è stata sempre, diciamo, uguale, identica, non è cambiato nulla nella sua vita? No, anzi, ho scritto un raccontino e mi diverto, lo leggo, io non ho paura di nessun animale. Vabbè, già dopo essere stati posseduti da un ragno, vorrei vedere. Essere stato simbiosi anche con... da una femmina di ragno è qualcosa di unico e vale la pena raccontarlo. No, diciamo, nel film La Mosca, che ha avuto un glorioso remake, accade di uno scienziato che viene mixato in una sorta di teletrasporto con una mosca e diventa un uomo mosca, gli cade la mascella, diventa una cosa terribile. Con il ragno però non eravamo mai arrivati così avanti con una testimonianza, questo mi dà veramente piacere. Cugio, che hai da ringhiare? Fatti sotto, stronza di un cane! Avanti! Vieni, se hai il coraggio! Io ti ammazzo, stronzo figlio di puttana! Non ci si rivolge così a un cane però, Giuseppe. E infatti si viene puniti duramente dal San Bernardo partorito dalla mente morbosa e malata di Stephen King, che è Cujo, questo... appunto garrulo quadrupede che infila la testona e nato per la salvezza del povero alpinista, sì, diventa per portare il whisky, il Ballantine, il cordiale insomma a quelli interrati nella neve, invece qui infila il testone in una sorta di tana per talpe e viene morso da un pipistrello, quindi un altro animale però demoniaco, che lo morde sul naso e gli viene la rabbia e quindi dalla bonalità si muta in furia e uccide chiunque gli capita a tiro. Ma la cosa particolare di questo film è la claustrofobia dentro l'abitacolo di una macchina che crea, perché c'è per quasi tutto il film c'è questa madre e questo bambino che rischia di morire di insolazione dentro questo abitacolo, so, con il cane assassino fuori che se li vuole mangiare, lercio di sangue, terra e muco che gli gira intorno, che batte il testone. Ecco, qui è un altro sottogenere, un'altra accezione, è l'animale mito, l'animale buono, l'amico dell'uomo che diventa cattivo, e come è diciamo la chiave narrativa degli zombie, tuo fratello, tua sorella, tua moglie diventa zombie, tu vai lì, lo abbracci, ma ancora se, e quello ti dà il morso tipico sulla spalla e il collo, ti porta via una mezza bistecca di lombata, che tu rimani così, dici come mai, e diventi zombie anche te. Luca, buongiorno. Sì, io volevo intervenire circa i ragni contro Tom, vedo che da lì non si esce. Comunque andiamo avanti, io rispetto la volontà del pubblico. Allora, cosa fa lei? No, io sono uno studente, ho avuto due grammostole rosse, uno scorpione. Le grammostole, mi sfugge una cos'è la grammostola? La grammostola è un tipo di tarantola un po' più piccola, che tra l'altro si trovano anche nelle zone qui, nelle Marche, pure penso al Sud Italia. Lei diciamo è uno studioso diciamo della vita dei ragni, ne sa un po', ne capisce? sì, qualcosa sì, tra l'altro c'è anche... Volevo allora chiederle un parere tecnico-scientifico. La fecondazione settuplice sulla schiena del nostro ascoltatore, qualcosa di possibile? Un ascoltatore dice se è stato... Ascoltato, penso sia... Non so, nella schiena non so se sia possibile, però... E di solito dove vanno a fecondare i ragni? Non ho mai saputo. Questo è un enigma. Quando il ragno si accoppia con l'uomo, dove va a parare? Non lo so, finisce con un fumetto di Stan Lee, non lo so. Vabbè, lui sta di schiena, quella è andata lì. Ne ha fatti solo 7, magari gliene avanzavano altre 2 di cartucce, non si sa dove sarebbe arrivato. Comunque lei c'ha uno scorpione, 2 grammostole. E 2 grammostole e un geco. Tra l'altro a Cesena ogni anno c'è una grossa fiera. Cesena è pieno di gechi, una zona, una grande area di gechi. Ma il geco così è sacro, il geco in realtà. Se lo alleva, dove lo tiene il geco? In un terrario. Però non c'è niente di mostruoso in questo, non è che... No, a volte addosso, ma anche la grammostola la faccio camminare addosso, però... Per spaventare le signorine, cioè, guarda, ce l'ho affascinato. No, però, essendo anche un appassionato di film dell'orrore tipo Fulci, c'ho un po' la cosa delle tarantole. Vabbè, lei a casa gioca con le tarantole venose, grazie. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Voglio cacciare squali. Perché? Quello non è un gioco ed è molto pericoloso. A me piace il rischio e pago bene. E poi è come alla corrida, il toro non vince mai. Gli squali sì, invece, e abbastanza spesso anche. Io sarei un po' indigesto. Mi piacerebbe provarci a prenderli, non ad essere presi. Quanto tempo ci vuole per imparare? Tutta una vita. Perché un uomo abbandona tutto per venire qui e rischiare la vita sott'acqua? Ma io la rischio anche fuori dall'acqua. Brutto affare. E magari qua sotto uno potrebbe anche trovare dei tesori sommersi. Lei che ne dice, eh? 800240024, questo non è il familiare suono e musica della motosega, ma è quello di un motoscafo che si allontana in delle acque abbastanza meste, in realtà, per essere luogo di coltura di uno squalo. Ma visto che oggi parliamo di animali assassini, delle paure che ci permettono di portare in superficie i nostri profondi timori e fobie, il vedere film con animali cattivi come protagonisti, non potevamo non parlare dello squalo. Ma ce ne fu uno grande, solo inimitabile, il grande squalo, che però ebbe tutta una serie di piccoli emuli, di cui forse fa parte questo reperto trovato da Giuseppe Sanzon. Il cacciatore di squali di Enzo Castellari, che pensò di cannibalizzare al volo il grande successo di Spielberg e lo ambientò in questo luogo che gronda esotismo, sospeso fra il Circeo, la Sardegna, Malta e la Nuova Zelanda, dove troviamo un franco nero ceruleo un po' stolido, come sempre, con la lunga chioma bionda sospesa fra Canigia, Valdarrama e il verdone di un sacco bello, che distilla lezioni sulla caccia allo squalo. Poi planerà col suo arpione con paracadute per cercare di prendere al volo i grossi animali marini, a un certo punto al bestione, fatto appunto con mezzi di fortuna, si romperà parte del corpo, avranno solo la testa, si dovranno un po' arrangiare per simulare gli assalti, ma comunque il film incassò diversi milioni di dollari. A un certo punto fu bloccato dallo stesso Spielberg, perché stava addirittura arrivando a incassare quasi quanto l'originale. Ecco, questo dimostra che in realtà lo squalo di Spielberg, la forza dello squalo di Spielberg, è stato il primo innanzitutto, poi è un'effettistica per i tempi assolutamente avveniristica. Lo squalone che si mangia la barchetta era qualcosa che non era immaginabile vederlo per noi, era fatto veramente bene. In quel momento, rosicchiando il successo e l'onda della paura per lo squalo, molti costruirono dei piccoli squaletti fatti in casa. In realtà, nonostante la piccolezza dell'effetto, vedo che, come vediamo questa mattina dal successo delle persone che stanno chiamando in maniera o più che copiosa, che in realtà sollevare il velo sull'animale cattivo e assassino solleva il velo su tante nostre paure. Gabriele. Buongiorno, chiamo da Milano. Infatti io in tema di squali e mare aperto non riesco proprio a vincere la mia atavica e insopprimibile paura delle creature mostruose che possono arrivare dal di sotto, quindi io proprio fantasiosamente non riesco a buttarmi da una barchetta in mare aperto, perché l'incubo è che qualche cosa possa strofinarsi sulle mie estremità o peggio morderle. Sì, perché lo squalo in questo, lo squalo perlomeno quello dei film, poi gli squali in realtà sono buonissimi, è un amico che fa continue dimostrazioni in giro per il mondo, fotografa squali per dimostrare in realtà lo squalo è un animale buono, mite, si può accarezzare sulla schiena e può essere anche addomesticato. In realtà lo squalo dei film è cattivo perché non è che le stacca subito mezzo corpo, le muore, non ci pensa più, le stacca prima un calcagno, poi l'altro calcagno, poi arriva la rotula, poi arriva diciamo a mezza coscia, prima di arrivare a una zona vitale, cioè a tagliarle a metà in modo che escano gli intestini, ci mette una buona mezz'ora, quindi fa soffrire molto. Lei immagino da questo sia stato spinto a non tuffarsi in acqua. Allora, io ho visto tutta la serie dello squalo, i vari numeri, non so poi quando sarà, la serie della piovra, ho cercato di esorcizzare. E non è servito la a nulla? Paura, ma una, no, no, niente, mi sono allenato. Ma nemmeno in piscina ci riesce? Ma figure, no, in piscina. No, ma per me la paura inizia a salire nel momento, è progressivo, più aumenta il fondale e più sale la mia impossibilità. Scusi, ma lei si tuffi di testa, così risolve il problema, vede subito cosa c'è sotto. No. Vedo qualche metro, nel momento che arriva la testa, come nei film, arriva la testa dentata, magari già con... ma poi sente la musica, finoletta. No? Sente la musica dello squalo. E se non sente la musica... Immagini che figure che ho fatto magari anche in presenza di ragazze, quando io cercavo accuratamente di nuotare in mare aperto o buttarmi. L'unica volta recentemente che l'ho fatto, perché c'era una donna che ci si piaceva a vicenda, una figuraccia, perché poi l'amico goliardico, una volta che sono sceso in acqua timidamente, è andato sotto a sollecitarmi il piede, sono rifuggito in barca. Sì, se non si è mai passa un pesciolino, le sfiora un alluce, lei rimane secco. Io, ma nel momento che il corpo, lei immagini effettivamente il mare, avere un corpo sospeso nel nulla, e sotto c'è un mondo che può arrivare a intaccare il tuo... lo so, però la vita è fatta anche di questo. Bruno? Sì, pronto? Lei è un pescatore di squali, no? No, io sono un pescatore dilettante, e soltanto che mi è capitata una disavventura con un mio amico qualche anno fa, un agricoltore, poi a me piace andare a pescare, che poi sono stato anche morso da un pesce d'acqua dolce, ma questa è un'altra storia, che il dottore, quando sono andato là con il morso del pesce, non ci voleva credere, vabbè, comunque questa è un'altra storia. Un agricoltore... Era un piragna, un pesce con i denti, cos'era? No, era un siluro. Ah, il pesce siluro, vabbè, certo. Sì, il pesce siluro, io l'ho molestato un po'. È il nostro squalo d'acqua dolce, è chiaro. Esatto. Allora, ma la storia non è questa, la storia è un'altra. Io ho una paura atavica dei serpenti e di tutti quelli striscianti che possono essere bisce, non bisce, eccetera. Allora, aspetti, fermi un attimo, le do un momento. Esiste un filone chiamato Tremors che parla di particolari rettili inesistenti, sono dei vermoni sotterranei che scavano fosse, poi escono fuori con una bocca dentata, addentano, si può anche ucciderli mettendo della dinamite in bocca, ma quando esplodono rimane una sorta di vomito viscidume orrendo e schifoso dall'odore terrificante. Andiamo, è meglio andare via, torniamo in città, ti prego. Andiamo via, gente, prego! Potrebbe trattarsi di qualcosa di geologico, tipo un gas naturale o un geyser. È proprio questo l'odore. Ti ricordi a Yellowstone? Oh, ecco Bruno, lei ha mai avuto un'esperienza ravvicinata con un rettile? I Tremors sono terrificanti, sono enormi, grandissimi, sì, poi scavano sottoterra. Sì, esatto, ho proprio avuto un'esperienza non con un remor, ma con un serpente, dopo, me l'hanno detto dopo, perché con una biscia d'acqua dolce. Succede che questo agricoltore ci chiede a noi due amici, che io e un altro mio amico, che perché, di un laghetto artificiale, di con il tramaglio, una rete, di raccogliere tutti i pesci che c'erano dentro perché lo prosciugava. Allora io da una parte e il mio amico dall'altra parte andammo a gettare le reti. Piano piano con il tramaglio a raccogliere questi pesci che c'erano dentro. A metà del laghetto viene profondo e allora arriva l'acqua fino al linguine, perché era d'estate, eravamo in pantaloncini corti, e arriva l'acqua al linguine, tutto un tratto mi sento un avvinchiare al polpaccio qualcosa di caldo, di freddo, non lo so. Caldo tanto. Caldo e freddo. freddo. Beh, a un certo punto io gli ho detto a quel mio amico: un momento, mollo tutto perché c'è qualcosa che... Allora io sono salito sul terreno, era un po' in salita, a un certo punto mi vedo una biscia nera avvinchiata al mio polpaccio perché sentiva caldo. Sì, però fanno un po' schifo, ma non fanno male. Non mi ha morso, ma nel frattempo avere già la paura, così mi sono sentito informicolare dalla testa ai piedi. Forse l'ha inseminato anche questo. No, non mordono le bisce d'acqua, no. Bisce d'acqua sono belle a vedere quando nuotano con la testa fuori, se tutti quei serpenti, esatto, nuotare. Come sono, Loch Ness. Esatto. Sì, sono, esatto, dei piccoli mostri, però diciamo chi pratica laghetti di pesca sportiva le vede ogni tanto, anche laghetti un po' più bradi. Sergio. Eccomi. Lei cosa fa schifo? Allora, i bruchi, quelli pelosi. La processionaria del pino. Tipo roba di quella. Sì, quella è un po' urticante se le passa addosso, ma non fa nulla. Allora, io sono originario del Venezuela e mi ricordo, ormai sono 30 anni che sono in Italia, e mi ricordo sempre, mi è rimasta questa immagine, da ragazzo ci si arrampicavano i muri. Allora, ho trovato in questo muro un bruco la lunghezza e la grossezza di un indice, giallo, me lo ricordo benissimo, con tutti questi peli lunghi, ma io non l'avevo visto. Io mi arrampicavo in questo muro, sento qualcosa di morbido sul palmo della mano, guarda, e c'è questo maledetto animale. Ma pensi che diventa una bella farfalla quel bruco poi? No, io ho capito benissimo che sono dei bellissimi animali. Una metafora, no, dalla bruttezza. No, che dopo un minuto, e questa mano mi si è gonfiata di brutto e mi faceva male. Eh sì, è la loro maniera per difendersi. Io questa immagine me la porto dietro, ho 53 anni, me la ricorderò sempre. Io tutte le volte vedo questi animali pelosi, diventeranno delle bellissime farfalle, io non lo so, però a me mi fanno schifo, io li schiaccio, io da piccino li bruciavo, prendevo la bottiglietta dell'alcol, li ma no, fuori. Non si fa. Io ero crudele. Lei pensi al povero brucaliffo di Alice nel Paese delle Meraviglie, che fuma il narghilè, che animale tenero, poi diventa anche lui una farfalla. Comunque, andiamo avanti con la nostra rassegna degli animali mostruosi. Il suo non è un cane d'attacco, signorina, questo è un cane bianco. Certo che è un cane bianco. Non mi riferivo al suo mantello. È addestrata ad uccidere la gente di colore. Ma che cosa dice? È una cosa assurda. Lei non ci crede. La vede questa cicatrice? Vede questa maledetta cicatrice? Avevo 14 anni e a farmela è stato proprio un cane bianco. Io vado a chiamare la polizia. Glielo dico che qui c'è uno schifoso cane bianco. Lascia perdere la polizia. Giuseppe Sanzonna quasi mischia il genere terrifico e orrifico a un film che ha in sé un suo portato, diciamo, sociale e politico. Sì, di un grande autore come Samuel Fuller, che riprende una vecchia usanza terribile, cioè di quello di addestrare dei cani per accacciare i neri da parte dei razzisti bianchi del sud in special modo. E quindi qui si narra la storia di questa ragazza che incontra questo cane e gradatamente scopre che ha questa missione, questo cane. Cercano di rieducarlo, ma purtroppo non ci riusciranno. Caccerà bianchi e saranno costretti a sopprimerlo. Incolpevole come i cani da combattimento, i bulgari cattivissimi, che poi sono stati costruiti e immaginati da uomini proprio per diventare delle macchine da uccidere. Quando on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Noi abbiamo integrato i geni di specie diverse per creare uno strumento di morte perfetto. Del gronion perché potesse vivere nell'aria. Del dattilottero, il pesce volante molto comune qui in questi mari, in modo che potesse vivere in qualsiasi habitat. Capisci? Dio mio, ma tutto questo lo dobbiamo dire immediatamente. E tu dovrai venire con me perché quelli si convincano. Non posso farlo, questo non dovrei neanche essere qui. È stata ammazzata della gente. Devi dire tutto quello che sai e subito anche. Senti, devo raccogliere altre informazioni. Dopodiché estenderò il mio rapporto, che poi manderò alle autorità militari, le sole qualificate. La gente di quest'isola non ha le qualifiche per risolvere cose di questo genere. Bisogna procedere per le vie ufficiali. Al diavolo le vie ufficiali. O tu mi aiuti oppure levati subito dai piedi. 800240024, la rassegna degli animali assassini, frutto più delle nostre paure che della loro essenziale, radicale e concreta natura assassina. Di cosa stiamo parlando in questo caso, Giuseppe? Parliamo di Piranha Paura di James Cameron dell'81, e qui si ripropone lo schema classico, ovvero organismi geneticamente modificati dalla scienza che cerca nuove perfezioni, o comunque cerca di modificare, deviare la natura dal suo corso, e poi la natura si rivolta contro l'uomo stesso. Hanno sempre, diciamo, un portato ecologista e catastrofista questi film, sì. Un po' come il pesce a tre occhi dei Simpson, che diventa tre occhi perché c'è la centrale nucleare del cattivissimo signor Burns, che inquina le acque. Ecco, c'è sempre una mutazione genetica nella specie animale che li porta ad essere cattivi. E la razza umana deve spiare questi esperimenti, questa devianza, appunto, attraverso le modifiche di questi impazzite di questi animali che diventano vendicatori della propria specie. Giuseppe, buongiorno, così chiudiamo l'aspetto dei pesci assassini. Sì. Suo padre cosa è stato? Cosa ha fatto? Ah, ecco, sì, guardi, sono passati 30 anni, ma è come se fosse ieri. Era in una barchetta di 2 metri, in una zona a 2-3 chilometri dalla costa pugliese. E guardi, era in compagnia col suocero, insomma, per farla breve, ha presente la vecchia 127? Sì, come no. Ecco, da occhio a occhio aveva quello spessore la testa. Il pesce cane, squalo, come lo vuole chiamare, non lo so. Come il cofano di una 127. Esatto, si girava attorno, Sì, guardi, sembra strano, ma poi mio nonno è stato imbarcato per tanti anni. Quindi non c'è possibilità che si siano sbagliati, erano due uomini di mare. No, esatto, guardi, lo squalo pare che sia cieco, io questo non lo so, stava cercando questa pietra bianca che si mette per non scalare. No, com'è la pietra bianca? Non so. Sì, si utilizza una pietra, un cestino di cemento per evitare di scalare. Ah, come un'ancora, ecco, diciamo. Esatto, come una specie di ancora. Riuscirono a tagliare questo affare, lo squalo cominciò a impazzire, insomma, guardi, girava. Era rimasto, diciamo, aggrovigliato nella fune di sostegno di questa... No, girava sempre più intorno, come si vede far davvero nei film, nei cartoni animati, non lo so, guardi. Guardi, mio padre da allora non si allontana più di 2 metri dalla riva perché non è possibile. E io che arrivo 6 anni, questa storia l'ho sentita, insomma, un bel po' di volte, non m'azzardo perché fra film colpevoli un attimino questa errore psicologico e questa storia, guardi, è una storia di vita vissuta. Invece, proprio come contrasto rispetto allo squalo, come è diventato un animale che fa parte dell'epica degli animali mostruosi, Mirka ha uno stranissimo terrore. Mirka, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti, mi spiace per i serpenti, le simpatiche bisce, tutto quello che ho sentito, i rani carissimi, ma quanto mi piacciono i rani, però come si fa davanti a un piccolo gattino? Io ho il terrore, ti viene attorno, viene per giocare, io grido, scappo, faccio ridere tutti. La paura dei gattini, la cosa più tenera che esiste al mondo. Io me la spiego così, avevamo un gatto di casa, avevo 4 o 5 anni, ma il ricordo è preciso, mio nonno cacciatore nella soffitta metteva il bottino di caccia, gli uccellini infilati, e il gatto, che era un bel gattone rosso pesante, si è infilato e ha fatto razzia. Come gatto e silvestro, come gatto silvestro e Titti, sì, l'ha trovati già impalati. Sempre impossibile, ma è così. E era inverno, ricordo perfettamente, le ripeto, non avevo 5 anni e mio nonno con una bastonata lo ha ucciso dalla rabbia. Beh, una scena tragica questa. La tragica, lo ha appeso per le zampe posteriori a testa e mi ricordo il sangue gocciolante nella neve. Vabbè, suo nonno era un sadico, cioè non esiste. Gli occhi, il problema è il nonno, non il gatto. Fuori dalle orbite. Sì, adesso termini questo racconto che già ci provoca raccapriccio. Sì, ma mi spieghi, perché più il gatto è piccolo e più ti cerca per giocare, sto parlando anche dei gattini. Guardi, io faccio ridere il condominio. Secondo me non occorre chiamare Beppe Neri, che è il nostro consulente psichiatrico. Lui ha avuto un trauma così evidente. Vedere un nonno che ammazza un gatto, che è un gatto di casa, sadicamente, in maniera del tutto ingiustificata, solo perché gli ha mangiato gli uccelletti e che lo ha lasciato in soffitta. Il gatto mangia gli uccelli, se li lascia lì è chiaro se li mangia. E gli fa poi tutto questo rituale, non solo lo uccide, ma poi lo appende il sangue sulla neve, sembra un setting fatto apposta per traumatizzare una persona. Lei, chiaro, vede quei gattini e sente colpita da questa sua immagine, quindi c'è una spiegazione. I gattini in sé non fanno nessun male, difficilmente uno può non amare o non amare i gatti, ma un gattino è l'immagine più tenera che esista. Invece Grazia invece più raffinata, sì, pronto, più raffinata, ma più nella norma. Sì, fuori dalla norma. Io vivo per molti mesi dell'estate, sono di Brescia, vivo sul lago di Garda in una casa di campagna, con molto verde, e vivo praticamente con tutti i tipi di animali selvatici, gli scoiattoli, purtroppo anche i topi di varie misure, piccolini, grossi, e io e vedo spesso anche delle bisce che lì. Quindi lei diciamo l'animale che la terrorizza è il topo. È il topo, si fermi lì. Solo per le docca, solo per allora, ascolti con attenzione quello che le faccio ascoltare. L'insensatezza degli uomini trionfa. Centinaia di bombe atomiche devastano i 5 continenti. Terrorizzati dalla carneficina, i pochi scampati cercano rifugio nel sottosuolo. La sua bocca si muove! Ma è morta, Cristo! No! Sono i topi, gli assassini! Vogliono mangiarci! Grazie! È pericoloso lì! Giuseppe Sanzonna, mentre la nostra ascoltatrice può bearsi di questa visione di topi assassini che fuoriescono dalla terra invasa di radiazioni atomiche e mangiano tutti gli esseri viventi, i tre animali elencati, ecco, i topi in questo caso di cosa stiamo parlando? Questo è Raz, notte di terrore, greve horror post-atomico, che appunto descrive questa umanità devastata dalla guerra atomica, e con i ratti che storicamente però sono animali, lo stesso Dracula se li portava nel sarcofago, portavano la peste. Ma insomma, resistono a tutto, quindi. Resistono a tutto, sono forse i più simili anche alla razza umana, se vuoi, anche nello sguardo. Una volta ne incontrai uno a Napoli di notte, ci incrociamo lo sguardo e vedi uno sguardo umano. Vede passato umano. Una sera a chiacchierare. No, un dialogo muto di invece sguardo. Esiste diciamo qualcosa legato alla paura dei gatti? Il gatto è invece magari Edgar Allan Poe, il gatto nero, insomma, che è stato ripreso film... in Due occhi diabolici, ecco, di Romero, c'è cioè questo gatto che si vendica crudelmente della ferocia che viene, però è sempre l'uomo che comunque su di lui, siccome lo odia, lo detesta a priori, gli strappa gli occhi e il gatto poi si vendicherà. Velocemente Roberto, un ultimo animale che la terrorizza, poi chiudiamo, lo dirlo in un secondo. Buongiorno, l'animale che mi terrorizza sono le piattole, ricordo a tal proposito un film un brutto affare. 90 Creep Show, in cui un malato di igiene che vive in un appartamento ultra tecnologico caccia le piattole e le mette nel frullatore. Allora le piattole si vendicano invadendo l'appartamento, quando dico invadendo un livello di mezzo metro di piattole, va via la corrente, quando ricompare la scena tutto è pulito, l'uomo è in terra e piano piano le piattole che nel frattempo sono entrate dentro il suo corpo si aprono per tutti ovunque e praticamente l'uomo... Beh, bellissima questa immagine, quasi una biblica punizione nei confronti dell'intemperanza e dell'incontinenza umana. La piattola assassina mi sembra la maniera migliore per chiudere questa puntata sugli animali terrificanti. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.